Con la settimana degli spazi femministi si vuole un po' porre l'attenzione dell'opinione pubblica sulla tematica appunto degli spazi femministi, sia intesi in senso fisico, quindi le case delle donne, le case rifugio, i centri antiviolenza, i consultori, ma anche con gli spazi che non sono tangibili, non sono fisici, ma che sono spazi di ritrovo, di discussione e che crediamo permettano anche a non di meno di avere quella potenza che ha dimostrato di avere appunto nella piazza di Verona. Quindi diciamo che la settimana è stata immaginata sia per lanciare delle iniziative nelle varie città, grazie insomma ai vari nodi territoriali di non di meno, iniziative che in qualche modo vogliono parlare della diversità che questi spazi rappresentano all'interno del paese e delle varie, insomma, degli vari spazi di agibilità che questi luoghi rendono possibile, quindi sia spazi fisici che spazi anche di cultura, di ritrovo e di riflessione. In particolare per spazio fisico intendiamo, come Casa delle Donne Luce e Siesta, proprio il tema delle case delle donne. Questi spazi che a Roma sono pochissimi, sono solamente due, quindi la Casa Internazionale e appunto la Casa delle Donne Luce e Siesta, e che noi crediamo siano spazi fondamentali che ogni territorio, ogni città possa declinare rispetto alle proprie esigenze, alle proprie peculiarità appunto territoriali. Ci sono anche le case rifugio, quindi i luoghi che servono alle donne che escono da situazioni di violenza per riprendersi, per riprendere fiato, ripartire e ricominciare una nuova vita, ma anche tutto il discorso sui consultori che, diciamo, qui nel Lazio stanno vivendo una fase particolarmente critica, ma che in tutta Italia sono sotto attacco. Anche quelli sono spazi delle donne conquistati dal movimento femminista con le lotte degli ultimi 40 anni e che sono progressivamente svuotati del proprio senso politico e sociale, quindi ormai solo presidi sanitari più che presidi socio-aggregativi rispetto anche alle questioni di genere, quindi non solamente violenza ma anche prevenzione, anche genitorialità, anche solidarietà femminista. Quindi diciamo che la settimana immagina una serie di iniziative che appunto ogni città declinerà nella propria forma, anche in diversi luoghi, sia le piazze che l'università, che le librerie, che i luoghi di ritrovo, e che vuole appunto porre al centro sia la difesa dello spazio femminista, ma anche l'importanza di aprirne di nuovi, di vederli riprodursi nelle varie città, nei vari territori, perché quelli che abbiamo vanno difesi e soprattutto non bastano ad esprimere tutto il desiderio e la potenzialità che il movimento femminista sta mettendo in campo ultimamente. Ecco, a proposito di spazi da difendere, in particolare l'ultimo evento di questa settimana per gli spazi femministi sarà proprio a Roma e sarà anche in difesa appunto della Casa Internazionale delle Donne e di Luce e Siesta. Casa Internazionale delle Donne che è più o meno sotto attacco della giunta ormai da quando si è insediata, e Luce e Siesta anche ormai da mesi sta combattendo una sua battaglia. Ci puoi raccontare un po' di più che cosa sta succedendo? Sì, a Roma abbiamo scelto appunto di essere proprio in Piazza del Campidoglio, che è la piazza dove si trova il comune, per parlare direttamente con l'amministrazione, quindi sia con la sindaca che con la giunta capitolina, della situazione che vivono appunto questi due spazi, due situazioni diverse, perché insomma nascono, hanno delle vicissitudini sia politiche che amministrative diverse, ma che oggi si trovano col pericolo di dover chiudere o di doversi vedere comunque addebitato un debito che renderebbe quasi insostenibile la loro esistenza. C'è un problema fondamentale poi di interlocuzione con l'amministrazione capitolina, che non è chiara rispetto a qual è l'intenzione sul futuro di questi due luoghi, che sono solamente due, e in una città che ha 15 municipi e 15 territori nei quali noi crediamo che debbano nascere appunto 15 case delle donne e che non si debbano chiudere le uniche due case che esistano all'oggi sul territorio di Roma. Noi ci auguriamo che con la mobilitazione di giovedì si possa parlare appunto della situazione di questi due luoghi, ma anche di tutti quei luoghi dove vive l'associazionismo femminista, quindi anche il Centro Donna Lisa, il Centro Donne Dalia, anche la situazioni che molte associazioni vivono in città e che faticano ad andare avanti, faticano ad ampliare le proprie attività e faticano a vivere serenamente all'interno di un territorio dove hanno dimostrato di essere una risorsa fondamentale. E crediamo che questa sia una tematica che, nella situazione complessa che la città sta vivendo sotto molti punti di vista, concentrarsi su degli spazi che invece hanno dimostrato di essere fonte, diciamo, di respiro, fonte di rinnovo per la città, sia doveroso sia da parte dell'amministrazione ma anche da parte di tutti gli altri movimenti sociali che in questo momento stanno avviando una situazione di crisi.